Roberto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Qualcuno ha accusato la Bindi di frenare perché sarebbe stata interessata a proteggere il proprio partito. Gli faccio rispondere da quelli del mio partito che hanno detto che io avrei fatto questo lavoro per motivi di lotta interna nel mio partito. Chiaritevi tra di voi, perché nessuno di voi due ha ragione. Insomma, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, alla vigilia delle regionali, si vota domenica, ormai lo sapete, in 7 regioni e in vari comuni, il presidente della Commissione Antimafia, che oggi ha divulgato questa lista dei cosiddetti impresentabili, è proprio nell'occhio del ciclone, attaccata e assediata da una parte e dall'altra, perché appunto ha proprio due giorni praticamente dalle elezioni presentato questa lista. I nomi sono pubblici, poi ne parleremo, e lei dice però... c'è che mi accusa, come il Movimento 5 Stelle sottintendeva che lei ha frenato fino ad adesso a divulgare, a pubblicizzare questi nomi perché voleva proteggere i suoi del PD, mentre lei dice, allora guardate che quelli del PD mi stanno attaccando dicendo che questa cosa è diffamatoria, che non è giusta, Zanda ha detto addirittura è una barbarie, e quindi mettetevi un po' d'accordo. Di questo sicuramente parleremo molto, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, perché ha creato appunto un putiferio alla vigilia delle elezioni, e su questo... vi chiederei anche di dire la vostra opinione, nel senso, ci sono i detrattori che dicono questa commissione non aveva diritto e non era opportuno che pubblicasse questa lista, perché ci sono soltanto i magistrati e i tribunali che devono semmai dire chi è candidabile e chi non è candidabile, e ci sono invece molti che dicono volevamo la trasparenza, quindi d'accordo con Rosy Bindi, volevamo sapere chi tra questi sono i cosiddetti impresentabili, cioè che hanno delle pendenze con la giustizia. Che ne pensate? Siete con quelli critici o sono con quelli che hanno apprezzato questa iniziativa, questa operazione della Commissione Antimafia? Come sempre per voi lo sapete, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte che potete frequentare in ogni momento del giorno e della notte, poi c'è il numero di SMS che è il 349-238-6666, 349-238-6666, per le vostre opinioni. Su questo argomento in particolare, a proposito di putiferio, non è servito a niente quello sulla FIFA, perché Blatter, il monarca assoluto ormai si può dire, visto che da 17 anni che è lì, adesso è stato riconfermato, è ancora adesso resta il capo del governo del calcio mondiale, nonostante tutto. Ci occuperemo di altre cose, ci sarà anche il meteo, visto che adesso c'è il ponte del 2 giugno, ma insomma ora è tempo di incominciare a raccontare la giornata. Elezioni regionali, scontro sulla lista degli impresentabili diffusa dalla Commissione Antimafia, sono 16, De Luca annuncia querela alla Bindi. Le elezioni della FIFA, si ritira il principe Al-Hussein, Blatter resta presidente. Economia, l'Italia fuori dalla recessione, nel 2015 torna la crescita e il ministro Padoan dice i dati sono incoraggianti. Il rogo alla Thyssen del 2007, pene ridotte in appello, in aula rabbia dei parenti delle vittime, Effetto Notte ci sarà l'ex operaio, ora parlamentare, che si salvò. La guerra nei Balcani, la Croazia risarcì le donne stuprate in guerra tra il 1991 e il 95, il Parlamento vara la legge, avranno danni, assistenza e vitalizio. Stati Uniti, l'America cancella ufficialmente Cuba dalla lista nera degli sponsor del terrorismo. Diana Bracco indagata per evasione fiscale da €1 milioni, la presidente di Expo accusata in un'indagine sulla sua azienda. Ciclismo, Giro d'Italia, a Cervinia impresa di Fabio Aru, ma Alberto Contador resta padrone della corsa. E ovviamente partiamo quindi dalle elezioni regionali, da ciò che alla vigilia di questo voto ha scatenato, vi dicevo, questa bufera, la pubblicazione della lista degli impresentabili stilata dalla Commissione Antimafia, Commissione Parlamentare, presieduta da Rosy Bindi. Si riaccende lo scontro nel PD nell'ultima giornata appunto di campagna elettorale. È guerra aperta nel PD sulla lista dei cosiddetti impresentabili diffusa dalla Commissione parlamentare antimafia. Fra i 17 nomi inseriti nell'elenco c'è anche quello di Vincenzo De Luca, il candidato governatore del centro-sinistra in Campania. Un brutto colpo per il partito di Renzi nell'ultimo giorno di campagna elettorale. A finire al centro di un duro scontro interno è la presidente della Commissione, la democratica Rosy Bindi, che presentando l'elenco oggi aveva risposto così alle accuse di voler interferire con la campagna elettorale. È proprio il fatto che le comunichiamo l'ultimo giorno che non intendiamo entrare nella competizione elettorale. Non è il nostro interesse. L'interesse della nostra commissione è quella di dare un dato di chiarezza attingendo a dati pubblici, non riservati, ma che a noi sono accessibili e non sono accessibili ai singoli cittadini. Dura la reazione di De Luca, che minaccia denunce per diffamazione nei confronti della Bindi, contro la quale si scatena anche il fuoco amico del PD. I renziani la accusano di aver utilizzato il suo ruolo istituzionale per vendette interne. Al suo fianco si schierano invece Bersani e altri esponenti della minoranza Dem. Mai vista tanta ferocia dentro un partito, commenta il leader del nuovo centrodestra Alfano, che nonostante gli annunci di Renzi assicura che nei confronti di De Luca sarà applicata la legge Severino. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il caso degli impresentabili e il caos nel PD irrompono nel dibattito a poche ore dal silenzio elettorale. Da Forza Italia attacca il capogruppo alla Camera Brunetta, che parla di spettacolo squallido dentro il PD, mentre definisce legittima l'iniziativa della commissione antimafia. Interviene anche il candidato del centrodestra in Campania, Caldoro, per il quale la candidatura del suo avversario è contro la legge e oltre la legge. De Luca dice è impresentabile e ineleggibile. Faccia un passo indietro all'invito del Movimento 5 Stelle, che rivendica intanto di non aver nessuno impresentabile nelle proprie liste, così anche il leader della Lega Salvini. Io sono orgoglioso, felice del fatto che non ci sia nessun leghista, non avevo dubbio in merito, problemi degli altri. Ma tenere banco in queste ore sono anche le polemiche sui Rom dopo il grave incidente di Roma. Berlusconi attacca Salvini accusandolo con i suoi toni esasperati di peggiorare la situazione, ma il leader del Carroccio replica: dove la Lega ha governato questi problemi non ci sono. Poi l'ex cavaliere da Pomeriggio 5 rilancia il suo appello al voto moderato. Mi rivolgo a tutti i moderati, fate l'investimento di un'ora, perché è un'ora che vi renderà 5 anni di buon governo. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E siamo allo scandalo della FIFA e alla rielezione del suo monarca. I thank you for the trust and confidence. Trust and confidence, together we go. Let's go FIFA, let's go FIFA. Thank È finita you. Così, con gli applausi a un emozionato Blatter, che ha incassato Thank il quinto you. Mandato da presidente della FIFA Thank e ringraziato tutti, amici e nemici, anche quelli che fino all'ultimo hanno cercato di sbarrargli la strada, provando a far diventare il terremoto dell'inchiesta dell'FBI uno tsunami che seppellisse il potere del colonnello svizzero. Nulla da fare, 133 a 73 l'esito della prima votazione, quorum mancato per soli 7 voti, e così il principe Giordano Ali Bin al-Hussein si è ritirato, evitando la seconda conta che avrebbe proclamato il trionfo di Blatter. La guerra scatenata da Platini, capo dell'UEFA, non è bastata. Il francese, il grande sconfitto della 3 giorni della FIFA, aperta con la retata e chiusa con la certezza che la ragnatela di potere e consensi di Blatter è solo scalfita. Nemmeno le federazioni europee sono rimaste compatte come chiesto dal loro presidente. Blatter ha promesso per l'ennesima volta che farà pulizia. I take the responsibility to bring back FIFA. With you, we do it, we do it, we do it. Vi ringrazio per avermi dato fiducia ancora, vi prometto che a fine mandato vi restituirò una FIFA più forte, ha detto. Parole già pronunciate nel discorso prima del voto. I delegati di 208 paesi evidentemente hanno voluto far finta di credergli ancora. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ritorniamo in Italia e sull'economia, perché il nostro paese è fuori dalla recessione. Nel primo trimestre 2015 il PIL, il prodotto interno lordo, è tornato a crescere con un aumento dello 0,3% rispetto all'ultimo trimestre del 2014. Questo lo rivela l'Istat, confermando le stime sul dato congiunturale. Si tratta del rialzo maggiore da 4 anni a questa parte. La ripresa c'è e tanto basta. I numeri forniti dall'Istat sul prodotto interno lordo indicano una crescita acquisita per l'anno che comincia a essere incoraggiante, afferma il ministro Padoan. Per la Confcommercio, invece, è confermata l'attuale fase di ripresa economica, ma la dinamica di PIL e consumi resta debole. Nello specifico, l'Istat ha confermato la stima preliminare del terzo trimestre, con il PIL tornato a crescere dello 0,3% rispetto all'ultimo trimestre 2014. La crescita c'è anche su base tendenziale, più 0,1%. Anno su anno. Da gennaio a marzo i consumi finali nazionali risultano in lieve calo, mentre gli investimenti fissi lordi crescono di 1,5 punti. Sul versante degli scambi con l'estero le importazioni sono aumentate e le esportazioni sono rimaste stazionarie. A sorpresa l'agricoltura inizia il 2015 segnando una crescita del 6%, numeri positivi anche per l'industria e le costruzioni, mentre variazione nulla nel settore dei servizi. Fuori dalla recessione e fuori dalla deflazione. A maggio l'indice annuo dei prezzi è risalito allo 0,2% dal meno 0,1 di aprile. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. C'è da parte dell'Istat anche questo dato sul lavoro. Dice: nei primi mesi del 2015 il mercato del lavoro non ha mostrato chiari segnali di inversione di tendenza. E adesso si torna a parlare del rogo del ThyssenKrupp dal dicembre, vi ricordate, 2007 a Torino, in cui morirono 7 operai. Se ne parla perché la Corte d'Assise d'Appello di Torino ha ridotto la condanna per tutti i 6 imputati di quel processo. Il processo in Corte d'Appello era stato ordinato dalla Cassazione nell'aprile 2014, dell'anno scorso, al solo scopo di ricalcolare le condanne inflitte agli imputati per il rogo del 2007. Le pene oscillano fra i 7 anni e i 6 mesi e i 6 anni e 8 mesi, con una leggera riduzione rispetto alle precedenti. Per l'amministratore delegato Speran la pena scende da 10 a 9 anni e 8 mesi, scusate, da 10 a 9 anni e 8 mesi, quindi praticamente ridotta di 2 mesi. Familiari che erano presenti, familiari delle vittime, hanno protestato in aula, e c'era in aula anche Antonio Boccuzzi, che è l'operaio che si salvò da quel rogo, che poi è diventato parlamentare del PD e qui in collegamento. Buonasera Boccuzzi. Buonasera a voi. Lei era presente oggi. Qual è stata la sua sensazione? È vero, guardare la riduzione è minima, però è una questione anche di principio? Di principio non solo, in realtà le pene, soprattutto per gli imputati italiani, quelli condannati a pene inferiori rispetto all'amministratore delegato, hanno avuto una riduzione importante, perché se consideriamo quella di oggi parliamo di un anno e mezzo di riduzione per ciascuno. Ma allo stesso tempo, se andiamo a prendere il processo di primo grado, sono riduzioni importanti, arrivano fino al 50% delle pene riconosciute nel primo grado. Questa è la delusione più grande, a cui si aggiunge anche la delusione che a distanza di 7 anni e mezzo neanche l'udienza, neanche la sentenza di oggi pone fine a questo percorso, perché ora i legali della Thyssen hanno già annunciato un nuovo ricorso in Cassazione. Diciamo, siamo un pochino un'anomalia, normalmente bene i 3 gradi di processo, i 3 gradi di giudizio nel corso di un procedimento. Noi arriviamo già oggi al 4° grado di giudizio e avremo probabilmente ancora un altro, una nuova Cassazione, quindi 2 appelli, 2 Cassazioni. Questo da parte della Thyssen, ma anche voi ricorrerete, quindi immagino. Se ci sono i margini, senza ombra di dubbio, abbiamo già provato ad assegnare qualcosa alla Procura Generale, che ha fatto richieste, diciamo, simili a quanto poi è stato riconosciuto nella sentenza di quest'oggi, a parte, come dicevo prima, le pene più basse, ma la pena all'amministratore delegato era stata una richiesta di 10 anni, sono stati riconosciuti 9 anni e 8 mesi, quindi una riduzione di soli 4 mesi rispetto alla richiesta fatta dal procuratore generale, e devo dire anche rispetto al precedente appello. Le pene vere, come dicevo, sono per gli altri imputati. Peraltro c'è anche da fare un'altra considerazione rispetto all'amministratore delegato: non essendo italiano, i tempi si allungheranno ancora, perché quando la sentenza sarà comunque definitiva si vorrà una richiesta di estradizione anche, ed eventualmente non venisse concessa, diciamo che sarà davvero una sentenza molto molto limitata. Grazie onorevole Boccuzzi. Grazie a voi. Grazie. Buona serata. Arrivederci. Adesso passiamo alle notizie dall'estero, con la guerra dei Balcani e i suoi orrori. Vi ricordate, negli anni 90 la Croazia ha approvato una legge che compensa le donne vittime di stupri avvenuti negli anni tra il 1991 e il 1995. Subirono orrori di ogni tipo. La misura prevede un risarcimento una tantum di 13.000 euro, un vitalizio e l'assistenza sanitaria, psicologica e legale. Donne devastate durante quella guerra. La legge è stata approvata con 86 voti a favore e 3 astenuti. Stati Uniti, adesso che hanno ufficialmente depennato Cuba dalla lista nera degli stati che sponsorizzano il terrorismo, era già nell'aria da diverso tempo, si era capito di questo disgelo chiaramente negli scorsi mesi. E per la cronaca, in Italia un avvocato è stato ucciso a Formia nel suo studio. La vittima si chiamava Mario Piccolino, era un avvocato e blogger di 71 anni. Secondo una prima ricostruzione della polizia, il legale è stato raggiunto da un colpo di pistola alla testa. Era noto Piccolino nel sud pontino per le sue battaglie contro l'illegalità. Intanto è ancora a caccia 2 minorenni rom che sono ricercati per aver travolto e ucciso la donna filippina a Roma di 44 anni e ferito 8 pedoni mentre correvano a folle velocità a bordo di un'auto inseguita dalla polizia. A Roma, vicino al luogo dell'investimento si è appreso oggi, sono state trovate 4 bottiglie incendiarie. Sono ancora in fuga i 2 minorenni nomadi ricercati da mercoledì sera dopo aver investito numerosi passanti uccidendo una donna e ferendo altre 8 persone nel quartiere Boccea di Roma. Gli investigatori sanno chi sono, hanno le loro foto segnaletiche, perquisizioni e interrogatori proseguono in tutti i campi nomadi della città. L'unica in arresto per concorso in omicidio volontario resta la 17enne di origine bosniaca catturata subito dopo l'investimento. Sarebbe la moglie di uno dei due. Non trovano riscontro intanto le dichiarazioni dei parenti o sedicenti tali, il racconto del padre di uno dei due che sostiene di essere stato lui alla guida, la richiesta di perdono della madre a nome dei ragazzi, la promessa che si consegneranno da parte della sorella. Tutti i tentativi per coprirli sospettano gli investigatori, mentre nel quartiere la rabbia dei residenti è fortissima. In serata in Campidoglio, la veglia organizzata dalla comunità filippina in ricordo della vittima. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Invece, per alleggerirsi, ponte del 2 giugno. Come sapete, ci sono 6 milioni di italiani che sfrutteranno questi giorni, che già sono in movimento o si muoveranno per questo ponte di vacanza. E per quanto riguarda la presenza all'Expo, arrivano i dati, i numeri, quasi 2 milioni ce ne sono stati nel primo mese e sono attesi per questo ponte circa 300.000 nuovi turisti. Per chiudere il ciclismo, Fabio Aru ha vinto per distacco la 19esima tappa del 98esimo Giro d'Italia di ciclismo da Gravellona Toce, vicino Verbania a Cervinia, vicino ad Aosta, lunga 236 chilometri, ma Alberto Contador resta padrone della corsa. Voi restate padrone e padroni naturalmente dei vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666. Vi dicevo all'inizio, siccome ne parleremo tra poco, se apprezzate il lavoro che ha fatto la Commissione Antimafia con la pubblicazione di questa lista di impresentabili oppure no. Qualcuno scrive: ma quali elezioni con il ponte non arriveranno al 30%? Quindi immagina che ci sarà astensionismo per il ponte. Carmine scrive: candidabili o non candidabili, me ne infischio, io non ho mai votato e mai voterò, chi va a votare pianga se stesso. Carmine, se non voti comunque qualcuno viene eletto in ogni caso anche senza il tuo voto, non so cosa sia peggio, peggio non votare. Andrea: ringrazio Renzi perché col suo abbraccio a De Luca mi ha fatto capire che non ha senso votare, forse neanche più il PD. Elio da Lecce: tutte le volte che vince la trasparenza e la legalità è una cosa buona, ne ha paura solo chi sguazza nella melma. Allora aggiorniamo chi già sta viaggiando verso il ponte o dove vuole, poi ci risentiamo tra poco. Smau ti aspetta a Bologna, 4-5 giugno, Bologna Fiere, smau.it. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Adesso ci immergiamo nella politica, però volevo prima darvi questa notizia che di questi istanti, battuta dalle agenzie, 17 cadaveri sono stati recuperati su un gommone carico di migranti al largo della Libia, dai marinai della nave Fenice della Marina Militare intervenuti in soccorso dell'unità in difficoltà, quindi continuano insomma la moria in mare dei migranti. Sulla politica c'è Di Maio del Movimento 5 Stelle, così vediamo se riusciamo a riequilibrare gli interventi, alla 7, sulla 7, al bersaglio mobile. Stiamo così, processi Di Maio. Per reati legati alla mafia. Ora, a me sembra un po' strano che la Commissione, per una volta che fa il suo dovere, cioè che la Commissione Antimafia dice ai cittadini italiani: guardate, questi sono impresentabili, il partito cosiddetto democratico che eredita la questione morale, dice di ereditare la questione morale di Berlinguer, invece di attaccare gli impresentabili e cacciarli dalle liste, attacca la Presidente di Commissione. Questa è la follia in cui ci troviamo. Ecco, questo è un assaggio di quello che faremo e di cui ci occuperemo adesso. Quindi Di Maio del Movimento 5 Stelle è favorevole all'iniziativa della Commissione Antimafia, è quello che chiedo anche a voi, continuano ad arrivare i vostri messaggi sull'apprezzamento o meno di questa lista divulgata dalla Commissione Antimafia. Il Movimento 5 Stelle la prova. Per voi 349-238-6666 per gli sms, già ne leggevo prima qualcuno, e poi anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte, naturalmente sempre lì per voi. Tra le altre notizie importanti, a parte appunto la vigilia delle elezioni regionali e questa lista di presentabili che ha creato questo putiferio, poi per l'economia fuori dalla recessione e della deflazione l'Italia rivede la crescita, il ministro Padoan dice sono dati incoraggianti. Al-Hussein, il principe Giordano, si ritira dalla candidatura per la presidenza alla FIFA e la FIFA rielegge Blatter. Lui dice è un cataclisma ma non servono rivoluzioni ma evoluzioni, dice Blatter che è lì da 17 anni. E poi processo ThyssenKrupp, ne abbiamo appena parlato, pene ridotte a tutti gli imputati, protestano i parenti delle vittime, è uno schifo, e c'era l'ex operaio della Thyssen, ora parlamentare PD, Boccuzzi, qui Effetto Notte poco fa. Minorenni nomadi ancora in fuga, uno si potrebbe costituire, a proposito dell'incidente a Roma. E poi fallite le campagne antifumo, si vendono più sigarette in Italia, pensate, 11 milioni di fumatori, 85.000 morti ogni anno. Non so se Fabrizio, perché Fabrizio tu non fumi? No, io non fumo. Bravo Fabrizio, un uomo virtuoso, bisogna dire, vice direttore del Sole 24 Ore. Fabrizio, ciao. Ciao. Allora, eravamo già arrivati al momento delle elezioni, e tutti naturalmente impegnati nella campagna elettorale, i leader, i candidati, eccetera, eccetera. È arrivata boom, questa bomba, come la vogliamo chiamare, della lista degli cosiddetti impresentabili, e sono 16. Vediamo se riusciamo a fare anche l'elenco di quali sono i nomi. Allora, sono il candidato presidente del PD Vincenzo De Luca, che dice anche la Bindi, ha detto nell'elenco che ha fatto Arcinoto, nome Arcinoto, Antonio Ambrosio di Forza Italia, Luciano Passariello di Fratelli d'Italia, Sergio Nappi che appoggia Caldoro presidente della campagna, Ferdinando Enrico di Nuovo Centrodestra, Alessandrina Lonardi, più conosciuta forse come Sandra Mastella di Forza Italia, Francesco Plaitano dei Popolari per l'Italia, che è in procinto di rinunciare però alla candidatura, Antonio Scalzone, che ha già ritirato la propria candidatura, Raffaele Viscardi, entrambi di Popolari per l'Italia, Domenico Elefante di Centro Democratico Scelta Civica, Biagio Iacolare dell'UDC, Carmela Grimaldi della lista Campania in Rete e Alberico Gambino della lista Meloni di Fratelli d'Italia. Allora, diciamo che già De Luca ha detto che la querelerà, che farà, insomma, querela alla Bindi, ne sono partite altre anche da Sandra Mastella. Nappi aveva detto durante la giornata: anch'io la querelerò, e poi dalla causa i soldi che avrò li darò in beneficenza. Se tu ti stanno chiamando, Fabrizio? Per caso, no. Ecco, e sentiamo innanzitutto come ha giustificato questa iniziativa della Commissione Antimafia Rosy Bindi, che la presiede. Sentiamo. Perché se tocca a questa commissione indagare sul rapporto tra mafia e politica, con particolare riferimento alle candidature per le assemblee elettive, e approva un codice nel quale sono contenute alcune regole sulle quali poi mi soffermerò, se non vogliamo che le leggi e i codici siano semplicemente delle grida manzoniane, forse alla luce di queste regole bisogna informare i cittadini di come sono state formate le liste nelle consultazioni elettorali che ci attendono di qui a qualche ora. Rientra quindi nei nostri compiti svolgere questa attività, che è un'attività delicata e impegnativa. Quindi Bindi dice: rientra nei compiti della Commissione Antimafia analizzare i rapporti tra politica e mafia, quindi in questo caso dice è pertinente la nostra iniziativa, però dice non è che questa lista e noi abbiamo il potere di rendere incandidabili questi impresentabili, semplicemente noi vogliamo essere trasparenti. Sentiamo anche questo passaggio. Che sia ben chiaro, questo codice non ha il potere di far ritirare nessuno dalle liste, non è una legge. Con questo codice non si dichiara l'incandidabilità e la ineleggibilità di nessuno. Si vuole soltanto dire ai cittadini che non hanno la possibilità di accedere ai dati di informazione pubblici cui noi abbiamo avuto accesso, qual è la qualità del personale politico che andranno a votare. Allora, vedo molti messaggi che stanno arrivando, ma il tuo pensiero, Fabrizio Forché, è qual è su questa operazione? È sicuramente un'operazione gestita tutta molto male. Tu dicevi una bomba, arriva a 2 giorni delle elezioni. È una bomba a scoppio ritardato, perché tra l'altro questi nomi dovevano essere resi noti già mercoledì, poi sono slittati a venerdì. Il tutto ha dato una sensazione di una gestione davvero fuori controllo di questa vicenda, e quindi il giudizio, diciamo, poi su quello che è stato fatto non può prescindere da questa gestione, che inevitabilmente poi apre il fianco alla critica di essere stata un'operazione un po' strumentale. E sinceramente capisco tutte le accuse che arrivano anche all'interno del PD verso la Presidente di averla gestita anche tenendo conto anche di certi contrasti interni al PD. È stata, ripeto, veramente una cattiva gestione di una cosa che in sé magari, sulla quale si può anche discutere, ma il modo in cui è stata fatta, arrivando veramente a poche ore dalle elezioni, secondo me è davvero inaccettabile. Però Fabrizio Forché, Bindi poi, la sentiamo adesso in quest'altro passaggio, si giustifica sul fatto che sia arrivata così a ridosso delle elezioni, dicendo: ci accusavano di ingerenza nella campagna elettorale, invece siamo arrivati all'ultimo proprio perché non vogliamo ingerire. Sentiamo. Veniamo ad un altro tema, che è quello che il nostro lavoro sarebbe in qualche modo un'ingerenza all'interno della campagna elettorale, che, se mi consentite, è anche un po' in contraddizione con il fatto che poi ci viene rimproverato che li comunicheremo l'ultimo giorno. È proprio il fatto che le comunichiamo l'ultimo giorno che non intendiamo entrare nella competizione elettorale. Non è il nostro interesse. L'interesse della nostra commissione è quella di dare un dato di chiarezza attingendo a dati pubblici, non riservati, ma che a noi sono accessibili e non sono accessibili ai singoli cittadini. Però Fabrizio Forché, tu sei contrario al fatto che abbiamo fatto un po' un pasticcio e fatto così a ridosso? Se l'avessero fatto prima, se fossero arrivati prima questi risultati in modo più chiaro, in modo cioè come avresti ritenuto opportuno? È che perlomeno è stato comunicato male, diciamo, cosa tutto questo rappresenti. Cioè, in base alla legge ci sono dei criteri sui quali i candidati possono essere candidabili o meno. Ora questi 16 vengono presentati come impresentabili. Ma che vuol dire impresentabili? Cioè, secondo me sì, più che un'operazione di trasparenza, io capisco anche, diciamo, la spinta che anche è legittima e anche positiva, come dire, di informare i cittadini su chi sono realmente candidati. Però poi mi pare che si è fatta una confusione enorme. Noi ora non sappiamo questi, sarò dei giornali spiegare bene che le persone che sono in questa lista non sono spesso condannate, non hanno nemmeno una condanna in primo grado. Insomma, ci si espone a segnalare delle persone senza spiegare bene perché sono impresentabili. Che vuol dire impresentabili? Hanno un'indagine, hanno un rinvio a giudizio, sono condannati in primo grado. Insomma, io credo che invece di fare chiarezza si rischia di fare confusione verso l'elettore in questo modo. Poi, questo giudizio non deve nascondere un altro giudizio, che è quello, per esempio, visto che è il più famoso di questa lista, parliamo poi del caso Vincenzo De Luca, non farci dire che la candidatura di Vincenzo De Luca presenta indubbiamente molte problematicità, insomma, sull'opportunità di candidare un candidato, una persona che poi sappiamo che non potrà fare il governatore della regione Campania, dovrà essere sospeso, dovrà fare ricorso. Per la legge Severino, insomma, dici? Per in base alla legge Severino, che De Luca possa il giorno dopo le elezioni fare il governatore della regione Campania, come sappiamo, è molto dubbio. Anzi, senti, perché allora secondo te Renzi lo appoggia così fortemente, anche la ministra Boschi? Cioè, Renzi chiaramente non è lui che ha scelto De Luca, probabilmente se avesse dovuto scegliere lui il candidato alla regione Campania non avrebbe scelto De Luca. E che lo amano lì in Campania. Luca, come sappiamo, insomma, è uscito da un processo di selezione legato alle primarie, insomma, alla fine De Luca è stato il candidato, credo è stato subito dal centro da Renzi. È un candidato popolare, un candidato che probabilmente potrebbe anche vincere queste elezioni, quindi una responsabilità diretta di Renzi nella scelta non c'è, però c'è un problema politico secondo me, perché comunque questo scarso controllo da parte del segretario del partito, in questo caso, del partito di maggioranza, del partito che ha un'ampia maggioranza oggi in Italia, questo scarso controllo a livello territoriale del partito è un problema politico, è un problema alla fine è piuttosto grave, proprio perché il PD rappresenta oggi un partito di stragrande maggioranza. Insomma, Renzi può dire che lui non ha una responsabilità diretta con De Luca, può difendere anche la candidatura di De Luca, però questo rivela comunque una problematicità all'interno di questo partito nel controllare il partito a livello territoriale. Adesso buttiamoci all'interno della campagna elettorale, che è già questa alla fine per quello che sta succedendo, per anche le forti tensioni all'interno del PD. Poi ci sono accuse anche da fuori, anche Alfano, no? Ha detto veramente una violenza inimmaginabile dentro il PD. Comunque, ora Renzi e la sua reazione. Mi fa semplicemente male che si intervenga in una vicenda. Oggi Rosi Bindi ha fatto un'uscita, Vincenzo De Luca ha querelato Rosi Bindi per diffamazione, se la vedranno in tribunale. Mi fa male una cosa però, questa sì, mi fa molto male una cosa, che si utilizzi la vicenda dell'antimafia per una discussione tutta interna, per regolare dei conti interni a un partito. L'antimafia è un valore per tutti, l'antimafia non può essere utilizzata in modo strumentale, l'antimafia è quel modo in cui non soltanto il PD, ma tutti si devono riconoscere. E per par condicio anche Berlusconi, sempre naturalmente in campagna elettorale. Comunque con Renzi frattura proprio per sempre. Ma guardi, frattura. Perché gli ha detto il rapporto... un biglietto scaduto. Ieri. Renzi ha detto di me che sono un biglietto scaduto. Sì. Beh, almeno a me il biglietto me l'avevano dato gli italiani, lui non l'ha mai avuto. È assolutamente fondamentale. Se tutti i moderati andassero a votare, noi vinceremmo in tutte le 7 regioni, perché i moderati sono la maggioranza numerica nel paese e il progetto che io diffonderò e cercherò di realizzare come padre nobile di questo centrodestra ampliato è proprio quello di trasformare questa maggioranza numerica in una maggioranza politica organizzata che potrà svolgere un ruolo di governo nel nostro paese. Allora, per i 5 Stelle prima abbiamo sentito Di Maio alla 7, per chiudere sentiamo Salvini, leader della Lega, e poi Fabrizio Forché ci dà proprio il tuo commento lapidario finale, le ultime parole prima del voto e prima del silenzio elettorale, va bene? Andiamo con Salvini. Non faccio pronostici, li lascio a Renzi, posso solo dire che la Lega secondo me sarà la grande sorpresa del voto di domenica, penso e spero che saremo il secondo movimento politico a livello nazionale, saremo l'alternativa a Renzi e se esiste un centrodestra dovrà farsi carico delle battaglie della Lega, vedo che Berlusconi negli ultimi giorni si agita un po', poi saranno gli elettori a decidere chi farà che cosa. Quali sono le tue ultime parole prima del voto, Fabrizio Forché? Che hai scelto questi interventi con intelligenza e intelligenza politica, perché in effetti in queste elezioni si decidono due cose. Una, se Renzi vince in maniera chiara o no, e questo lo capiremo sulla base del risultato in Campania e in Liguria. Se Renzi vince anche in Campania e Liguria e perde solo in Veneto, ha vinto le elezioni. Se perde invece in Liguria e in Campania, perde le elezioni. E questo è un tema di riflessione. Ma l'altro tema è questo che emergeva dalle riflessioni di Berlusconi e Salvini. Qui si decide il futuro, perlomeno il futuro immediato del centrodestra, la sfida tra la Lega e Forza Italia ci dirà chi sarà il protagonista nel centrodestra nei prossimi anni. E l'auspicio di Berlusconi, che i moderati sono maggioranza e che dopo il voto lui potrà riorganizzarli e tornare magari in futuro al governo del paese, con una Lega così forte, per la verità sembra un auspicio senza fondamenta particolarmente solidi. La sensazione è che dopo queste elezioni il centrodestra avrà un protagonista e questo sarà Matteo Salvini. È un moderato Matteo Salvini? Per ora no, vediamo se poi dopo le elezioni e in caso di vittoria riuscirà, come dire, a rendere un po' più rotonda la sua offerta politica e quindi parlare poi a tutto il centrodestra. Grazie Fabrizio Forché, buon grazie. Voto allora. Ciao, grazie. Che vinca il migliore o il meno peggio, come dire. E poi, prima di lasciarci brevemente i vostri messaggi, penso che la chiarezza dovrebbe essere sempre appoggiata, soprattutto da chi è messo in discussione, come si può infatti fare buona politica con poca credibilità. E Mirko dice, ma quale lista? Quelli del PD sono tutti impresentabili, anche quelli in carica, viva l'onestà. E un altro dice, incredibile, il giorno prima del voto, una carognata bella e buona, se non è lotta politica questa, al 349-238-6666 i vostri messaggi o sulla pagina Facebook di Effetto Notte, tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il sole 24 ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Andiamo quindi, Roberta Giordano sempre con voi, anche i vostri messaggi al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Per esempio Elena scrive, l'iniziativa della Commissione è giusta, l'errore sta nel fatto che l'hanno pubblicata due giorni prima del voto. Stiamo parlando naturalmente della lista della Commissione Antimafia sugli impresentabili. Cristiano, se ti servisse, dice a me, già da ora un acerbo conteggio degli astenuti, a sinistra puoi iniziare da me. Nino, criticarla, la Commissione è un'opzione che non prendevo in considerazione. Rosanna, la provo se non è pubblicata con fini indicativi per conflitti personali, se la pubblicazione non viene all'ultimo momento, così che non si può correre ai ripari. Quali sono le altre notizie più importanti, a parte le regionali alle porte e la lista dei impresentabili? Eccole qua. Le elezioni della FIFA, di cui parleremo tra pochissimo, l'economia con l'Italia fuori dalla recessione, il rogo alla Thyssen del 2007, pene ridotte in appello, in aula rabbia dei parenti delle vittime, affetto note avete sentito l'operaio, l'ex operaio, ora parlamentare che si salvò, Boccuzzi, e poi la guerra nei Balcani, la Croazia risarcisce le donne stuprate durante la guerra 1991-95, ciclismo, Giro d'Italia, Cervini all'impresa di Fabio Aru, ma Alberto Contador resta padrone della corsa. Siamo, a proposito di putiferi, sullo scandalo di nuovo che ha investito la FIFA, il governo del calcio mondiale, con l'inchiesta dell'FBI che ha creato questa bufera con tanti dirigenti, altissimi dirigenti della FIFA arrestati, con 47 capi d'accusa che vanno dalla corruzione, alla frode, al riciclaggio di denaro fino all'associazione per delinquere. Avrebbero preso questi dirigenti negli ultimi 20 anni, e Blatter, il capo assoluto, è lì da 17 anni, tangenti per 100 milioni di dollari. E nonostante tutto ciò, nonostante il capo della sezione criminale dell'agenzia del fisco americana abbia detto questa è davvero la coppa del mondo della corruzione, per darne le dimensioni, quello che era l'inamovibile presidente dei 17 anni, Sepp Blatter, 79 anni, ex colonnello svizzero, al comando dal 1998, resta il numero uno della FIFA. No, Pippo Russo, scusami. Prego, Pippo, prego. Scusa. Buonasera. Ero presa dalla concitazione. Sociologo... Del resto le notizie la stimolano, la concitazione. Sociologo, giornalista, autore di Gol di rapina, Il lato oscuro del calcio globale, questo il suo libro. Pippo, tanto ce l'aspettavamo, ce l'avevamo detto ieri, che chiaramente sarebbe stato rieletto Blatter, no? Il principe di Giordania Hussein si è ritirato perché ha visto che non voleva essere mortificato da un amplen, insomma, di Blatter, e al primo turno, no? Dopo la prima votazione si è ritirato. La votazione è andata come avevamo predetto ieri, ma non siamo stati maghi, era nelle cose, perché Blatter continua a stare dopo oltre un ventennio su un sistema di potere che è feudale, che lui ha edificato, ma che i suoi sostenitori tengono assolutamente a mantenere in piedi, perché il loro sistema di potere è costituito su prebende locali che questi potenti locali devono far continuare, ed è stato fatto continuare. Il tentativo del principe di Giordania era un tentativo velleitario, si sapeva che i numeri comunque avrebbero premiato Blatter indipendentemente dallo scandalo, e così è stato. E questo dimostra per l'ennesima volta che il calcio, a qualunque livello, a partire dal vertice internazionale, è un mondo non riformabile e soprattutto non autoriformabile. Quindi possiamo dire, Pippo Russo, che è un mondo marcio che replica se stesso all'infinito? Assolutamente, come tutti i sistemi marci, hanno come unico obiettivo, superato un certo livello di marciume, soltanto l'autosostentamento e l'autoperpetuazione. Si tratta di sistemi di potere che ormai, rispetto alla promozione del calcio come fenomeno sociale, non hanno quasi più nulla a che fare. Si tratta di un grande sistema finanziario che è modernissimo nei meccanismi di produzione di denaro, ma assolutamente premoderno nelle tecniche e nelle logiche della gestione del potere. Ed è questo mix tra ipermodernità turbocapitalistica e feudalesimo nella gestione del potere che è la cosa più devastante per quello che dovrebbe continuare a essere il gioco più bello del mondo. Pippo, si può dire che il grande sconfitto in questa rielezione, dopo 17 anni che il monarca assoluto, di nuovo lo sarà per altri 4 anni Blatter, il grande sconfitto è Platini, presidente dell'UEFA? Perché lui aveva cercato di guidare questo movimento contro Blatter, di invitare a votare il principe Hussein, di fare questa, di agire questa svolta, questa rivoluzione. È sicuramente uno degli sconfitti, perché Platini innanzitutto rappresenta il calcio europeo, che è quel calcio che dal sistema di potere costituito da Blatter è il movimento più penalizzato, nonostante si tratti del movimento più ricco e maggiormente produttore di denaro. Ed è sconfitto per avere capeggiato nel corso del tempo troppo timidamente l'opposizione a Blatter. Perché non ha mai saputo costruire un'alleanza di potere forte, un reale cartello che potesse contrapporsi a Blatter, e poi ha fatto la mossa di opporsi in modo chiaro soltanto a scandalo scoppiato, quando francamente era troppo tardi. Tra l'altro aggiungo che non è neanche una coincidenza, cioè è una coincidenza veramente indicativa, a suo modo tragica che questa grande sconfitta per Platini giunga nel trentennale dell'Eisel. Già, ricordiamo la tragedia dell'Eisel, la finale Juventus-Liverpool nello stadio di Bruxelles il 29 maggio 1985 con 39 morti di cui 32 morti italiani. Degli spalti, con Platini che segnò il rigore decisivo ed esultò, poi lui disse che non sapeva e dobbiamo credergli, però fu francamente un'immagine terribile che rimane nella storia e che rimane nella storia personale di Michel Platini. E che ci sia stata questa coincidenza della grande sconfitta elettorale nel giorno in cui ricorre il trentennale dell'Eisel e di quella pessima immagine è un segnale che è più di una coincidenza. Grazie Pippo Russo. Grazie a voi, buona serata. Grazie, buona serata a te. Direi che è il momento di aggiornare chi viaggia. Monge, alimenti naturali per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Avete acceso la radio in questo momento? Male, dovete accenderla alle 21 senz'altro per sentire Effetto notte, ma vi ricordo a questo punto ugualmente le notizie più importanti. Elezioni regionali con la bomba scoppiata alla vigilia e la lista degli impresentabili divulgata dalla commissione antimafia, con scontri soprattutto all'interno del PD e tra Renzi e Bindi, Rosy Bindi che presiede la commissione. Poi fuori dalla recessione l'Italia e dalla deflazione, quindi il nostro paese rivede la crescita, dice il ministro dell'economia Padoan. Abbiamo appena parlato della rielezione di Blatter a capo assoluto, monarca assoluto del FIFA, quindi del governo del calcio mondiale, dice non servono rivoluzioni ma evoluzioni, vedremo come si evolverà la FIFA. E poi processo Thyssen, le pene ridotte a tutti gli imputati, le famiglie che gridano è uno schifo, era presente l'operaio che si salvò, ex operaio adesso parlamentare del PD Boccuzzi. Minorenni nomadi ancora in fuga per l'incidente costato la vita a una donna e con 8 feriti a Roma. E poi fallite le campagne antifumo, dicevamo si vendono più sigarette in Italia, 11 milioni di fumatori. Europa 24 notte. Ecco qui il nostro Sergio Nava, ciao Sergio. Ciao. Per parlare della campagna del primo ministro britannico Cameron in giro per l'Europa per cercare di strappare importanti riforme sull'Unione in vista del referendum che farà, no, nel suo paese. Sì, è stata una settimana cruciale questa, se è solo l'inizio di un percorso, va precisato, ci sono ancora circa 2 anni, però Cameron ha cominciato lunedì vedendo il presidente della commissione Juncker, ma gli incontri più importanti sono stati tra ieri e oggi. Ieri sera il presidente francese Hollande e poi questa mattina c'è stato un incontro con la premier polacca Kopacz e nel pomeriggio anche Angela Merkel in Germania. Sostanzialmente l'inizio di una trattativa, si è visto sbattere la porta in faccia dai polacchi che non sono molto favorevoli a rivedere le regole sulla libertà di movimento in Europa perché ci sono molti lavoratori polacchi in Gran Bretagna, mentre la Merkel è sembrata più aperta, ha detto se c'è la volontà c'è la via. Insomma, la Merkel ha detto non vogliamo che la Gran Bretagna esca dall'Europa, troviamo una soluzione assieme. Cameron da parte sua ha detto noi vogliamo comunque un'Europa riformata, il percorso è lungo, ci sono 2 anni davanti. E immigrazione e economia sono tra gli altri 2 nodi in cui si giocheranno queste delicate trattative con i partner europei, come spiega Vincenzo Scarpetta, analista politico di Open Europe a Londra, al microfono appunto del nostro Sergio Nava. Scarpetta commenta per cominciare uno dei nodi più spinosi, la libertà di circolazione in Europa. Grazie Sergio. Credo che il terreno d'incontro potrebbe essere su una revisione delle regole per quanto riguarda appunto l'accesso al welfare degli immigrati, perché è chiaro il principio stesso di libertà di circolazione è una linea rossa per praticamente direi per tutti i paesi dell'Unione, tutti gli altri paesi dell'Unione Europea, e non credo che neppure lo stesso David Cameron voglia mettere in discussione il principio di libertà di circolazione, perché è un principio dal quale beneficia anche lo stesso Regno Unito, quindi non è il principio che è in discussione, è una questione che riguarda piuttosto il funzionamento delle regole e quello che è poi l'accesso al welfare di questi immigrati, in modo da arrivare a una riforma che possa anche ristabilire quella che è la fiducia dell'opinione pubblica britannica nel principio stesso di libertà di circolazione, perché in questo momento questo principio e questa che è così importante importante e così centrale in quella che è la costruzione europea, è stato messo in discussione in questo paese. Potremmo avere due Europe tra un po' di tempo, cioè all'interno della stessa Unione Europea, un'Europa veramente a due velocità. A due livelli diversi di integrazione, sì, che vada in sensi di marcia un po' differenti, ma che comunque preservi quello che è il nucleo centrale della costruzione europea, che è il mercato unico e che è così importante non soltanto per il Regno Unito, ma per tutti gli altri 27 paesi. La questione centrale qui è che nel momento in cui David Cameron e il governo britannico parlano di un determinato tipo di riforme per snellire la macchina burocratica, per renderla più competitiva, più aperta al commercio internazionale, questo genere di riforme va visto in un'ottica paneuropea, va visto come un qualcosa, come delle riforme dalle quali potranno trarre beneficio tutti i paesi. Voi avete fatto un rapporto, avete fatto uno studio sui costi, se in sintesi ce li puoi un po' riassumere, questi costi, l'impatto che avrebbe una Brexit a livello economico? Dipende dagli scenari. Ci sono quattro scenari diversi. Diciamo che nel caso limite, quindi di un'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea senza alcun tipo di accordo commerciale con gli altri paesi europei, quindi un Regno Unito che sostanzialmente esce e poi rimane completamente isolato, e quindi uno scenario altamente improbabile, io credo, si arriverebbe a perdere intorno al 2% del PIL nel 2030. Invece gli scenari politicamente più realistici mostrano che la differenza è più limitata, stiamo parlando comunque di variazioni in positivo e in negativo al di sotto dell'1% del PIL nel 2030. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Eccolo là che sta formando, eccolo là, guardate che bello, è un cono come piace a noi, guardatelo. Questo sì. Sì, guarda che bello! Sì, ma guardate che bello, è enorme! Non è un bambino davanti a un cono gelato, questo è il nostro Paolo Corazon Paolo, che è negli Stati Uniti e si diverte dietro i tornado, ognuno c'è su questo. Che emozione, buonasera a tutti Roberta, ma guarda, sì, siamo qua a studiare questo fenomeno e proprio in zona Cesarini un tornado F2, che quindi è un tornado anche particolarmente intenso, ci si è formato davanti in totale sicurezza, lontano da centri abitati, quindi ce lo siamo goduto, lasciatemelo dire, e credo che il mio entusiasmo insomma lo lasci trasparire. Beh, sì, devo dire che traspare alquanto. Paolo Corazzoni invece adesso, pur con i piedi lì negli Stati Uniti, devi tornare anche con i piedi per terra qua in Italia, per dirci invece noi per questo ponte che meteo ci dobbiamo aspettare mentre tu insegui i tuoi tornado a forma di cono, Paolo? In realtà poi comunque siamo sulla via del ritorno, guarda, ottime notizie per questo ponte del 2 giugno, al centro-sud sarà proprio un ponte estivo, bel tempo, temperature elevate ma non eccessivamente alte, quindi perfetto. Anche al nord tutto sommato non avremo condizioni malvagie, qualche temporale di passaggio ci sarà, ma i classici temporali estivi rapidi, molto veloci e non particolarmente intensi, quindi direi proprio che da nord a sud riusciremo a godercelo. Tornerai a cavallo di un tornado, Paolo? No, piedi per terra, prendiamo il nostro aeroplanino adesso e torniamo in territorio italiano, e non vedo l'ora, perché l'America sarà anche bella, ma a me piace di più l'Italia. Ti aspettiamo, caro Paolo. Ciao Paolo. Grazie, buon weekend. Ciao Paolo, a te. E leggo ancora qualcuno dei vostri messaggi, visto che c'è ancora qualche secondo. Sebastiano scrive: da Mafia Capitale alla FIFA, lasciare troppo tempo delle persone sulle poltrone di comando fa fare l'uomo ladro, certamente. Questa è una verità assoluta, caro Sebastiano. Poi Silvia: che votazione farsa quella che ha confermato Blatter al vertice della FIFA, ora sarà contento, speriamo che non arrivi l'FBI ad arrestarlo, ma vedremo se sarà indagato o meno. E poi ancora tanti messaggi sugli impresentabili in Italia: per l'enormità dei reati c'è bisogno di giustizialismo più che di giustizia, dice Antonio. Poi ancora la questione morale nel PD riesplode clamorosamente, Berlinguer ci aveva visto giusto, i partiti sono macchine di potere. Ciao Roberta, buon lavoro a voi, buon fine settimana, ma tanto poi ci sentiamo tra pochissimo, ci sentiamo per gli aggiornamenti alle 22.